nasce adesso, ma il padre non lo sa. Sotto il leggero trucco, un sorriso di libertà. Andrea è italiano, ha i baffi e l'età per chiederle un bacio, il bacio che avrà. Sotto al cielo, nella laguna, perle negli occhi, raggi di luna, capelli neri, ciao, amami se vuoi. Fatima porta il velo per dovere e per umiltà, è destinata a un altro, viene dal Pakistan. Andrea nel silenzio, senza nido, sogna di andare via, mano nella mano. Figlia d'Arabia, sabbia di mare, aspetterò. Fatima torna a casa, mai più ne uscirà. Figlia di una Dio, donna per fedeltà. Andrea che l'aspetta nel suo cuore, sa l'amore a un solo Dio, prima o poi.